Today will be another very basic Satnya Dhamma talk, and Satnya we shall discuss Satnya qualities that are recommended to be cherished, to be practiced by the meditators. Quindi questa sera ci sarà di nuovo un discorso di Dhamma, come dire, fondamentale o di base, che riguarderà delle qualità che vanno sviluppate perché la pratica possa progredire. And so the title of our Dhamma talk could be "One wishing to attain that state of peace should act thus." Allora, si potrebbe iniziare questo discorso dicendo: colui che vuole raggiungere quello stato di pace dovrebbe meditare nel seguente modo. Now, in two verses from the Sutta Nipata, we find 14 qualities described. And those 14 qualities will be mentioned and will be explained one by one. Nel Sutta Nipata, in due versi, sono elencati 14 qualità che vanno esercitate, che vanno praticate, e adesso queste qualità verranno spiegate, discusse, una per una. Now, the first verse is as follows: one skilled in good wishing to attain that state of peace should act thus. He or she should be able, that's the first quality, straight, the second, upright, obedient, gentle and humble. One skilled in good. Sì, allora inizia così come abbiamo detto precedentemente, quindi una persona, come dire, abile, che vuole raggiungere quello stato di pace, deve sviluppare le seguenti qualità, o deve comportarsi nel seguente modo. Allora, e le qualità sono: dovrebbe essere abile, straight, retto, upright, di nuovo sono abbastanza sinonimi, onesto, perfectly upright, perfettamente onesto, obedient, obbediente, gentile ma più nel senso di delicato, and then humble, e umile. No. The second verse contains certainly the remaining qualities, namely, the meditator should be content, or should be contented, then easy to support, with few duties, living lightly, controlled in senses, discreet, not impudent, unattached to families. Should be contented. Quindi nel secondo verso sono elencate le rimanenti qualità, quindi deve essere soddisfatto, appagato, easily to support, ed essere facile da sostenere, with few duties, con pochi doveri, living lightly, quindi deve vivere con leggerezza, controlled in senses, deve controllare i propri sensi, discreet, deve essere discreto, not impudent, non impudente, and not greedily attached to families, e non deve essere attaccato in maniera avida alle famiglie, alla famiglia. Now, as for the very first quality to be emulated by all of you as meditators here on retreat, is given in Pali as sakka. Sakka is an adjective which means able or possible. Quindi per quanto riguarda la prima qualità, che è quella che andrà, dovrebbe essere emulata da tutti voi qui, allora la prima è quella dell'essere abile, e nella lingua Pali la parola è sakka, che significa appunto essere in grado, essere capaci, essere abili. Yes. And so to be capable or able with regard to what? Well, with regard to the practice of virtue. Allora, essere abili in che cosa? Beh, si intende essere abili nella pratica della virtù. Now, it seems that the commentary then gives the following explanations, namely, a person who is able must, or a person who practices sila must have faith that such practice is certainly beneficial. Allora, nei commentari si spiega che essere abili significa che chi pratica sila, quindi la moralità, deve avere la fiducia che questa pratica sia di beneficio. And as we discussed already yesterday, the main benefit of the training in virtue is non-remorse. E come abbiamo già spiegato ieri, il maggior beneficio di questo addestramento nella virtù è il non rimorso. Now, it is certainly only in seeing the benefits of the practice of sila that certainly one will be ready to undertake this practice. E quindi è solo vedendo i benefici di questa pratica di sila che una persona sarà disposto a intraprenderla. Now, in order, or the expression to be able with regard to certain to virtue has a second aspect, namely, or second implication, namely that we need to be healthy. Allora, essere abili nella pratica di sila ha una seconda implicazione, e cioè che dobbiamo essere in buona salute. And certainly, for instance, here on retreat, all of you are, or most of you are observing the 8 precepts, and certainly this is possible only if you have a certain degree of good health. E qui a un ritiro tutti stiamo prendendo, quasi tutti prendiamo gli 8 precetti, e questo è possibile solo se c'è almeno una minima base di buona salute. So let's say you suffer from diabetes and you need to take many small meals over the day or in the course of a day, then it would be already quite difficult to keep the 6th precept. Ipotizziamo che qualcuno abbia il diabete, ha bisogno di consumare vari pasti, piccoli pasti durante la giornata, e quindi per questa persona già sarebbe difficile rispettare il 6° precetto. No, the third aspect with regards to being able in connection with virtue is certainly that we need to have courage. And to express it differently, we should not certainly be cowards, and also we should not be lazy when it comes to practicing sila. Un altro aspetto di questa pratica della moralità è che è necessaria una certa dose di coraggio, e questo vuol dire che non dobbiamo essere né codardi o vigliacchi, diciamo, né pigri per quanto riguarda la pratica della virtù o della moralità. Now, when you think of maintaining or defending just the first 5 precepts, and out of those the 5th one of not indulging in intoxicating substances, let's say you're together with your friends and at a party or so, or better dinner, and some red wine is being offered, then it takes courage to say no thank you, I'll just go for a glass of orange juice. Prendiamo per esempio la situazione in cui vi trovate a cena con degli amici, per esempio, e viene portata in tavola una bottiglia di vino, e vi viene offerta del vino. Ecco, se state seguendo appunto i 5 precetti, in riferimento al 5° che è quello di astenersi dal prendere sostanze intossicanti, beh, in quel caso ci vuole un po' di coraggio a dire no, grazie, non prendo il vino, preferisco un bicchiere di succo di arancio. So in a society where moral standards tend to disintegrate to some extent, it really takes courage to defend an ethical form of conduct. In una società dove l'etica morale e gli standard di moralità si stanno disintegrando, beh, ci vuole una certa dose di coraggio per poter difendere questa condotta morale etica. No, the fourth and last aspect in this connection of being able is that one needs to possess some degree of intelligence to well observe the precepts. Il quarto aspetto per quanto riguarda questo primo punto dell'essere abili è che è necessario anche una certa dose di intelligenza perché sia possibile rispettare i precetti. So, to give you an example, let's say a certain situation arises and some person comes up to you and then questions you about someone else, and you don't want to get the other person in trouble. And if you would say something, then it could be interpreted as it could end up being a lie, and then it might be better simply just to keep quiet and not to say anything whatsoever. Allora, mettiamo per la situazione nella quale una persona vi chiede delle informazioni riguardo ad un'altra persona e queste informazioni potrebbero mettere quell'altra persona in difficoltà, creargli dei problemi, e il fatto di dire delle cose sarebbe comunque una bugia, e quindi a quel punto la cosa migliore sarebbe di non dire niente, di mantenere il silenzio. So, for you as yogis, please check for yourselves whether you are fulfilled with these four aspects in connection with sila or not. E quindi per quanto riguarda voi meditanti, controllate per voi stessi se possedete questi quattro aspetti in connessione con questa qualità della virtù. No, the second quality is that of uju in the Pali scripture language, which is an adjective. And this means straight, honest, upright, or straightforward. Allora, la seconda qualità è quella che in Pali è chiamata uju, e questo può essere tradotto con i seguenti aggettivi. Straight, honest. Ok, straight vuol dire una persona letteralmente dritta, cioè retta. Yeah. Onesta. Onesta. Upright. Upright is pretty close to honest. Upright is rectitude. No, that's the way I translated the person. Oh, you got that one already. Sono più o meno tutti appartengono alla stessa sfera, quindi una persona onesta, sincera, corretta, ecco. And straightforward. E diretta. Questo, sì. Okay. So, one needs to possess honesty when practicing sila. Quindi una persona deve possedere onestà quando sta praticando sila. Now, as Sandra has pointed out already, the second and the third quality, namely of suju, which is also an adjective, is very similar to the second quality. It also means upright. Quindi, come abbiamo già come si è già evidenziato prima, questa seconda qualità che abbiamo detto, cioè suju, è molto simile all'altra, questi sono sinonimi, e comunque significa essere retti. Now, sometimes this then gets translated as one should be perfectly upright. A volte viene tradotto con essere perfettamente retti. Now, when we practice the Dhamma, we need lots of honesty. Quando pratichiamo il Dhamma è necessario avere molta onestà. And so in particular, when we undertake a meditation retreat and we relate our meditation experiences to a meditation teacher, this is where honesty counts a lot. Soprattutto quando intraprendiamo un ritiro di meditazione, dobbiamo riferire le nostre esperienze di pratica all'insegnante, e in questa situazione che l'onestà è di grande importanza, conta molto. And so, we may have had an entire day of difficult experiences, and we feel our practice is pretty lousy, yet we may want to or wish to impress the teacher, pretending that our practice is really good. And honesty gets sacrificed in the process. Per esempio, potremmo avere avuto una giornata veramente compromised. Veramente molto difficile. E abbiamo l'idea che la nostra pratica sia veramente, come dire, molto negativa in quella giornata, però vogliamo fare bella figura, vogliamo dare una buona impressione all'insegnante, e quindi andiamo al colloquio e gli diciamo che tutto è andato molto bene, che la pratica sta procedendo molto bene, e quindi in quel caso non siamo onesti e questo compromette la pratica stessa. And the thing to do is simply to be very honest about one's meditation experiences, and to relate those honestly to one's teacher, and only then can a teacher, based on the report given, give a proper proper advice, proper or instructions. Quindi la cosa da fare è essere molto onesti con se stessi rispetto alla propria esperienza e riportare onestamente all'insegnante, e solo in quel caso, sulla base di quello che onestamente è stato riferito, l'insegnante potrà dare le giuste istruzioni, le istruzioni appropriate. Now, a simile that will convey the meaning for the second and third quality is as follows. Namely, an outstanding artist using very good paints happens to do a painting on a dirty canvas. The outcome will be mediocre. Allora, una similitudine che può illustrare queste due qualità, la seconda e la terza qualità, è quella di un artista che utilizza dei colori per dipingere, però la sua tela è sporca e quindi il risultato di questo dipinto sarà appunto rovinato, sarà inferiore all'aspettativa e sarà mediocre. Likewise for our meditators. If a meditator is not honest, then the outcome of his or her practice will be mediocre. E lo stesso vale per il meditatore. Se non è onesto rispetto alla propria pratica, allora il risultato sarà mediocre. On the other hand, when our artist does a painting with first class paints on a clean canvas, then the painting will be very clear and impressive. Likewise, when a meditator's mind is pure, and then his or her practice will be very clear. Viceversa, se questo pittore utilizza colori di prima qualità e una tela pulita, allora il risultato sarà un dipinto molto chiaro e che fa una buona impressione, insomma, avrà un buon risultato. E allo stesso modo un meditante, quando è onesto, allora la sua pratica sarà pura, avrà una mente pura, quindi la pratica sarà anche pura e chiara. Now, the fourth quality mentioned in our discourse is certainly given as one should be obedient. The Pali for this is suvaccha, which means obedient, compliant, and the noun is sovaccassa, which means obedience. Quindi la quarta qualità è l'obbedienza, essere obbedienti, è un aggettivo. E in Pali questo aggettivo è suvaccha. Suvaccha. And the noun is sovaccassa. Sovaccassa invece è il sostantivo, obbedienza. Sì. o compliance e anche adattabilità, o meglio Now, to express this differently, one easily accepts the teachings and certain instructions given by a teacher. E quindi per spiegare meglio questa qualità, si può dire che una persona facilmente accetta le istruzioni date da un insegnante. No. Obedience is a quality that is not necessarily held in high esteem in Western society. So we tend to go against our parents, we don't want to be obedient towards them, and certainly we also don't necessarily want to be obedient towards our teachers or any form of elders. Nella società occidentale l'obbedienza non è molto valorizzata, tendiamo ad andare contro i nostri genitori, a non volerli obbedire, così come tendiamo a resistere, a non obbedire ai nostri insegnanti o agli anziani. No. The Buddha has placed much emphasis on this obedience, and this can be shown, for instance, in the Mangala Sutta, the discourse on blessings. We have the following verse, or we have one verse that states patience, obedience, meeting those who have calmed the mental defilements, and discussing the Dhamma on suitable occasions. That is the highest blessing. Nel Mangala Sutta il Buddha, oltre ad aver dato precedentemente molta importanza comunque a questo aspetto dell'obbedienza, questo Mangala Sutta, lui elenca una serie di condizioni che sono la maggior benedizione per un meditante. E queste condizioni, adesso ve le ripeto, la pazienza, l'obbedienza, meeting those who have calmed the mental defilements, incontrare o frequentare coloro che hanno calmato i difetti mentali, and discussing the Dhamma on suitable occasions, e il fatto di discutere o di parlare del Dhamma in situazioni adatte. And this is the highest blessing. Sì, questa è la benedizione maggiore. So, when you have, let's say, a difficult time in your meditation practice, and suddenly a teacher is around, and then you can approach this suddenly teacher, and suddenly then the teacher can give you some valuable advice, and then it's worth being or complying with this suddenly advice. Quando uno sta attraversando dei momenti difficili nella propria pratica e c'è a disposizione un insegnante, allora gli si può avvicinare e chiedere consiglio o istruzioni, e poi è molto utile e di beneficio accettare le indicazioni date dall'insegnante e obbedire a ciò che viene detto. So, if you are practicing and you have a teacher, and this teacher is giving you some good advice, then you could consider yourself as fortunate as a person, or you could consider yourself like holding a golden pot in your hands. Quindi se state praticando e avete delle difficoltà, avete la possibilità di rivolgervi a un insegnante che vi dà dei buoni consigli, allora potete davvero ritenervi fortunati. È come se voi possedeste una pentola piena d'oro. And the reason for this is the instructions given to you will help you to develop the intuitive wisdom. E questo perché le istruzioni che vi vengono date vi aiuteranno a sviluppare la saggezza intuitiva. Now, there is the story of Vatna, elder Sariputta, one of the chief disciples of Vatna the Buddha, who on one occasion was wearing his robes in an uneven manner. The robes need to be even worn even all around. Allora, c'è una storia che riguarda Sariputta, uno dei discepoli del Buddha, che indossava il proprio abito, però in maniera non... I think of the Italian word. In maniera non equilibrato, insomma, no? Un po' sfasato, perché un abito di un monaco deve essere consumato lo stesso modo da tutte le parti, ecco, non uniforme, diciamo così. And so it so happened that a 7-year-old novice, a Samaner, saw the elder having his worn or wearing his robes not properly, not in a uniform manner, and so this novice pointed this out to the elder Sariputta. And Satya then, rather than getting angry at Satya, this young, no-name Samaner, the elder Sariputta said, yes, or the elder who adjusted his robe, and Satya then even said, should you ever see another mistake in me, please feel free to point it out. Allora è successo che un bambino di 7 anni, un giovane novizio, un samanera, ha notato questo abito indossato nel modo errato e l'ha fatto notare all'anziano Sariputta, il quale, anziché arrabbiarsi per il fatto che un bambinetto novizio senza nome si era permesso di fargli notare un suo difetto, lo ringraziò per averlo fatto e anzi gli disse di sentirsi libero di fargli notare in qualsiasi altro momento ci fosse qualche altro difetto nel suo comportamento, nel suo modo di vestire. And so, the elder Sariputta here is a good example for obedience and also for humility, no pride. Quindi l'anziano Sariputta è un buon esempio di obbedienza e anche del fatto di non avere orgoglio, non essere presuntuosi e di umiltà. Now, muddu is certainly the next quality given in Pali as muddu, and certainly this certainly then means certainly to be gentle or malleable. Quindi l'altra qualità, la quinta mi sembra, è in Pali è muddu. E questo ha significato di essere gentile o delicato sarebbe, ma nel senso più di malleabile, flessibile. And other ways of bringing across this meaning is one is soft and pliable. Quindi un altro modo per esprimere questo significato è che una persona è morbida e adattabile, flessibile. So one's mind needs to possess this malleability, pliability. Quindi la mente deve possedere questa forma di malleabilità, questa flessibilità. Now, the interesting point is that owing to wrong views and certain pride and certain conceit, the mind tends to get rather hard and stiff and rigid, which is just the opposite of this softness and pliability. A causa delle visioni errate, dell'orgoglio e della presunzione, la mente ha la tendenza di irrigidirsi, a diventare dura, tesa e rigida. No. È esattamente il contrario di come dovrebbe essere, cioè di questa malleabilità. No. When we are seeking the Dhamma, and then we need to adjust our mind. Our mind needs to be in a condition that makes it easy to absorb the Dhamma. Now, the Dhamma is extremely refined, and we can absorb this Dhamma only if our mentality is, as stated by the Buddha, is malleable, soft, and pliable. E quindi quando intraprendiamo la pratica del Dhamma, vogliamo conoscere il Dhamma, dobbiamo essere anche in grado di adattare la nostra mente. Siccome il Dhamma è una cosa molto raffinata, molto sottile, allora anche la mente deve possedere queste qualità indicate dal Buddha, della morbidezza, della malleabilità, per poter assorbire questo Dhamma. Now, in order to bring about that softness, pliability, malleability of the mind, we need to encourage wholesome mental states such as faith, such as wholesome intentions or volitions. E quindi per ottenere questa mente morbida e malleabile dobbiamo coltivare quegli stati mentali salutari, come per esempio la fede o le intenzioni o le volizioni salutari. Now, a chunk of iron ore, which is rather hard, can be turned into a very thin blade of razor blade. Un pezzo di ferro che è molto duro può essere trasformato in una lama molto sottile. Likewise, if it's possible to turn a chunk of iron ore into a thin blade of steel, then it should also be possible to reform the mind and make it soft and pliable. Quindi, se è possibile trasformare un pezzo di ferro in una lama molto sottile, allo stesso modo sarà possibile trasformare la mente da dura e rigida in qualcosa di morbida e di malleabile. Now, just for general knowledge, the Buddha has spoken of one particular mental state which he calls mudita, and this is nothing other than malleability of the mind. Quindi, solo così per vostra conoscenza, il Buddha parla di uno stato mentale salutare che è chiamato in Pali mudita, ed è, e si riferisce proprio a questa malleabilità della mente. And its characteristic is the subsiding of rigidity. E la sua caratteristica è proprio la, come dire, l'eliminazione della rigidità. And its function is to crush that same rigidity. La funzione è quella di schiacciare quella rigidità, frantumare quella rigidità. And it is manifested as non-resistance. Si manifesta come non resistenza. Now, what do you think? When we're on a retreat and that we're seeking the Dhamma, and then will we be very successful adopting a very proud attitude towards the Dhamma, or will we be successful if we're humble? Allora, voi cosa pensate? Quando stiamo intraprendendo la pratica del Dhamma, avremo più successo se il nostro atteggiamento mentale sarà caratterizzato da una mente orgogliosa orgogliosa, oppure se sarà caratterizzata da una mente umile? No. What do you think? Difficult question. It's obvious. In Lumbini, I get scolded for asking two simple questions. A Lumbini mi sgridano perché faccio domande troppo facili. But then sometimes some difficult questions come. Ma a volte poi arrivano anche delle domande difficili. Okay. So, the correct answer is obvious, namely, it is when we're humble, we can easily gain this Dhamma, understand the Dhamma. E la risposta è ovvia, è solo quando siamo umili che noi riusciremo ad ottenere questo Dhamma, a comprendere il Dhamma. And so the Buddha has sensed this correctly, and therefore has given in our short two verses that one should be humble, anattimani, in the Pali scriptural language. Quindi il Buddha questo l'ha compreso bene e per questo l'ha inserito in questi due versi che abbiamo letto, e la parola in Pali per umiltà è anattimani. So mana, just for general knowledge, mana is your pride and conceit, and then atti means your superiority conceit. Allora mani significa orgoglio e presunzione, e atti sarebbe la presunzione che ti fa ritenere superiore. And certainly the prefix anna is a negative marker, so it means certainly the negative of this. E quindi il prefisso ana è una negazione, che e quindi sta a indicare il contrario di questo. Quindi la qualità è il contrario della presunzione. So you are aware that it will be difficult to practice this Dhamma with much pride and conceit, but you might not necessarily know why. Allora, potreste essere d'accordo che, o essere convinti del fatto che per praticare è necessario non avere questo orgoglio, questa presunzione, ma forse non vi è molto chiaro il perché. No. The explanation is as follows. At the time of the Buddha, there were a number of Brahmins, so members of the highest caste, who had the great fortune to approach the Buddha, or would have had the fortune to approach the Buddha, but on many occasions chose not to approach him, or if approaching him, then they would just engage in some useless discussion, and then not receive any Dhamma instructions from the Buddha. Al tempo del Buddha c'erano molti brahmini che appartenevano alla casta più alta, e molti di questi avrebbero avuto la possibilità di avvicinarsi al Buddha e ricevere il Dhamma, ma molti non lo fecero, e quelli che invece si avvicinarono al Buddha si intrattenevano in altre discussioni, ma non erano in grado o non avevano la volontà di ricevere il Dhamma da lui. And in our modern society, if we happen to be a very highly successful person, very wealthy, and also well respected in society, why should we approach some teacher for Dhamma? We are successful in life, what do we need the Dhamma for? E per fare un paragone con la società odierna, se noi siamo delle persone di successo, abbiamo benessere e ricchezza, abbiamo successo nella vita, perché dovremmo andare a chiedere a un insegnante di darci di insegnarci il Dhamma? Cosa ci serve questo Dhamma? So, in the case of such a person, the pride will block his or her access to the Dhamma. The person may not even realize this. E quindi nel caso di questa persona la sua presunzione potrebbe bloccare la sua possibilità di accedere al Dhamma e potrebbe anche non rendersene neanche conto. Now, again, a very simple and obvious certain quality that certainly needs to be expressed, and certainly this is of being contented. E poi la qualità successiva che va anch'essa praticata ed è molto importante è quello di essere contenti, nel senso di appagati, soddisfatti con quello che si ha. So indeed we need to be contented with what we receive here at the center, in terms of the accommodation, in terms of the food, in terms of the general infrastructure. Per quanto riguarda il ritiro qui, dovremmo accontentarci, quindi essere soddisfatti con quello che ci viene offerto, per quanto riguarda la sistemazione, per quanto riguarda il cibo, per quanto riguarda la struttura in generale. Now, when we pursue the Dhamma, then fashions of the world do not matter that much anymore. Quando seguiamo il Dhamma, le mode che ci sono nel mondo non hanno più quella grande importanza per noi. And so, those who lack this particular quality of contentment will always want to acquire, let's say, clothes of the very latest fashion. Chi non possiede questa qualità dell'essere soddisfatto con quello che ha, andrà sempre alla ricerca per esempio, dell'ultima cosa offerta dalla moda, ecco, cose all'ultima moda, anche in termini di vestiti, per esempio. And so just look at the monastics, not only in the Buddhist tradition, but also in the Christian tradition or other traditions, you will find most of them, most of their clothing is certainly pretty uniform. Se guardate le persone che appartengono agli ordini monastici, non solo nel buddismo ma anche nel cristianesimo e in altre religioni, vedrete che il loro modo di vestire è abbastanza uniforme. So in the morning when I get up, I don't have much worries about choosing the right clothing. It's just one color and one design, and that's every day the same thing. Quando mi sveglio la mattina non devo preoccuparmi rispetto a cosa mettermi, è solo un colore e un abito, e quindi ho meno preoccupazioni rispetto alla scelta. Now, if you happen to have a whole wardrobe that certainly covers one entire wall of clothing, then you may have to think a lot in the morning what to wear. Se avete un armadio che per esempio occupa tutta una parete piena di vestiti, allora è facile che al mattino avrete molti pensieri rispetto a cosa indossare. To share one story with you. A number of years ago we had an American meditator practicing at the center in Lumbini, and this lady happened to be a lawyer. Allora, condivido con voi una piccola storia. Da qualche tempo fa è venuta a Lumbini a praticare una signora americana che faceva l'avvocato. And so gradually she got fed up with her profession, and when she practiced in Lumbini, she admitted that she had one wardrobe the size of an entire wall full of clothing, and she admitted this is too much. E quindi si era un po' stufata del suo lavoro, e quindi questo era il motivo per cui aveva lasciato tutto ed era andata a Lumbini a fare un ritiro di meditazione, e aveva confessato che in realtà lei possedeva un armadio che era lungo quanto una parete ed era tutto pieno di vestiti, e lei stessa diceva che era troppo. And certainly with the meditation practice, all of this changed. And certainly when she returned to the U.S., certainly she gave up her job as a professional lawyer, and instead she started working for some NGO. And her her wardrobe was reduced to probably very little. E quindi quando, dopo questo ritiro di meditazione, la sua vita è cambiata, è tornata negli Stati Uniti, ha lasciato il suo lavoro e si è messa a lavorare per una NGO, un'organizzazione non governativa, così. E ovviamente anche il suo guardaroba si è ridotto proprio all'indispensabile. No, one should be easy to support. Is certainly the next quality that certainly the Buddha has certainly described. Quindi la qualità successiva descritta dal Buddha è che uno deve essere facile da sostenere o da mantenere, forse meglio. Now, to say this in very clear words, we should not be fussy while on a retreat. Allora, per dirlo in termini molto semplici, non dovremmo essere capricciosi quando facciamo un ritiro. So, let's say Gianni and Sandra have prepared, have worked very hard during the morning hours preparing a delicious meal, including presto, and then here comes our fussy meditator and says, oh, I don't like presto, this is not for me, can you please prepare something else for me? Allora, per esempio, immaginiamo che Gianni e Sandra passano tutta la mattina in cucina a preparare un pasto, e nel menù c'è la pasta con il pesto, e arriva il meditante capriccioso che arriccia il naso e dice, no, a me questo non piace, puoi prepararmi qualcosa di diverso. It's pesto, no? Pesto. So I like pesto a lot. Al venerabile piace molto. Well, again to share the story in this regard, on one occasion there was a meditator at a meditation center in Burma. I will not certainly reveal the details, and also not the name of the person. And so that meditator, during the interview with the Venerable Sadhu Pandita Bhimamsa, would say, Venerable sir, oh, my health is so bad, and can you advise your kitchen staff to prepare food for me without garlic? And then the Venerable Sadhu had to go and tell his volunteers in the kitchen not to prepare or to prepare food for this one person without garlic. Allora, per raccontare un'altra storia a questo riguardo, c'era un meditante che frequentava un centro di meditazione in Birmania, non dirà né quale né il nome del meditante, e comunque è andato a fare colloquio con Sayadaw Upandita e gli riferì che aveva dei problemi di salute e se fosse possibile avvisare i lavoranti in cucina o i cuochi di non cucinare con l'aglio. E così il venerabile è dovuto andare in cucina a chiedere allo staff di cucina di evitare l'aglio nel menù. A week later, again, during the interview, more or less the same story happens. Venerable, my health is still not okay. It seems there's something wrong with the onions. Could you kindly instruct your volunteers in the kitchen to cook food for me without garlic and without onions? Dopo una settimana, lo stesso meditante è tornato al colloquio e ha ripetuto più o meno la stessa cosa. La mia salute ancora non va bene. Credo che ci sia qualcosa che non va con le cipolle. Puoi per favore andare in cucina a chiedere ai cuochi di cucinare del cibo speciale con me senza aglio e senza cipolle? And it went on like this for a couple of weeks. È andato avanti così per un paio di settimane. The poor Sayadaw, who had to instruct his kitchen staff all the time, and the poor volunteers in the kitchen who had to adjust to these ever-changing needs of just one single meditator. Il povero Sayadaw, venerabile, che doveva continuamente andare in cucina a istruire lo staff di cucina e i poveri volontari in cucina che tutte le volte dovevano adattare il loro pasto alle esigenze di quest'unico meditante. From an experiential point of view, we can say that meditators who are overly fussy probably will not gain the Dhamma. Da un punto di vista delle esperienze fatte, possiamo dire che i meditanti che sono troppo, diciamo, particolari o capricciosi, insomma, rispetto al proprio cibo, difficilmente otterranno il Dhamma. No. Different from this is a meditator who holds the opinion or has the attitude, it is enough if I achieve the Dhamma, it doesn't really matter what kind of food is being served. E invece è completamente un altro atteggiamento, quello del meditante che dice la cosa importante o è sufficiente per me ottenere il Dhamma e non mi importa che tipo di cibo mi viene servito. Now, apaticca is certainly the next term in Pali, which means in English one should have few duties while on a retreat. Apaccetta, right? Apaticca. Apaticca. E la successiva qualità da sviluppare, e questo significa che il meditante deve avere durante un ritiro poche cose da fare, cioè pochi compiti, pochi doveri. So here at the center the yogis are required to help a little bit with the running of the center, but it's clearly, those chores are clearly limited. And certainly this is certainly good. And certainly since, as a meditator, if you would have too many chores, then it would certainly make it very difficult to develop concentration. Qui in questo centro vi è stato chiesto di fare dei piccoli lavori per aiutare nella gestione del centro, e questo va bene, però se voi doveste farne troppi o essere troppo occupati con altri lavori, questo potrebbe influire sullo sviluppo della concentrazione. Several decades ago, when the Venerable Mahasisada of Burma set out teaching at the Mahasi Center, some of his devotees approached him and asked him, "Venerable Sir, should the yogis be sweeping the pathways or not?" And Satna Bhaknin, the Venerable Mahasi Sayadaw, said, "Better not. Let them focus on just one task only, namely to be mindful." Allora, qualche decennio fa, nel centro di meditazione di Mahasi Sayadaw, gli è stato chiesto se fosse il caso di far spazzare i sentieri dai monaci o dai meditanti che andavano lì per fare un ritiro, e lui rispose che era meglio di no, era meglio che si dedicassero ad un unico compito, che era quello di sviluppare la consapevolezza. And certainly the Mahasi Center is certainly well established and well supported, so there are plenty of volunteers who come to the center every day and take care of these kind of duties. E quindi questo centro Mahasi è ben consolidato, e ci sono sempre dei volontari che vanno tutti i giorni per svolgere questi compiti. Now, the next quality mentioned by the Buddha and certainly to be cherished by meditators is certainly that one should live lightly. Sallahukka vutti is the Pali term for this. Quindi la qualità successiva è quella che riguarda il fatto che il meditante dovrebbe vivere in modo leggero, poi lo spiegherà meglio. Lightly, in Italian, leggero means carefree. No, it means to bring few things along. Quindi leggeri nel senso di portarsi poche cose dietro, ecco, in quel senso lì. E poi ha detto il termine pali, hai messo pali. Salahukavuti. Salahukavuti. And maybe another term for this in English would be frugality. Ecco, forse la frugalità è un termine che si adatta meglio. So when we come on a retreat, we bring the very essential things along in terms of clothing, medicine, and so on, and everything else we leave at home. If we bring along too many things, then we have to worry about those and look after them, and also ensure their security. E quando veniamo a un ritiro ci portiamo dietro poche cose in termini di abbigliamento, di medicine, e lasciamo a casa la maggior parte delle cose. Se dovessimo portarci troppe cose dietro, questo sarebbe una fonte di preoccupazione e dovremmo appunto occuparci della salvaguardia delle cose che ci siamo portati dietro. Now, very important is, as mentioned already yesterday, just briefly, to be controlled in one's senses. And when we go somewhere, we do so calmly. When we come from a certain place, we do so calmly. When we dress, we do so calmly, and so on and so forth. Un'altra qualità che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato anche ieri è quello di essere controllati riguardo ai sensi. Quindi quando andiamo da qualche parte lo facciamo in maniera calma, quando ritorniamo in maniera calma, quando ci mettiamo addosso dei vestiti lo facciamo in maniera calma e così via. Seriously, will make a big difference, and so we will find that a person who is really restrained in the senses will be quite different from, let's say, some city dweller who is extremely busy and not restrained at all. E quindi quando mettiamo in pratica o quando sviluppiamo questa qualità del controllare un po' i sensi, vedremo che fa la differenza, e quindi chi appunto si comporta in questo modo è molto diverso da chi invece vive per esempio in una città ed è occupato da mille cose e quindi non riesce a controllare i sensi. Yeah, right. No. The 12th quality is that of being discreet. To put it differently, to be wise or to be prudent. Quindi la dodicesima qualità è quella di essere discreti, nel senso di essere saggi e prudenti. So, in connection with the phenomena seen, heard, smelled, and experienced, our reflections then should be deep and not or deep, profound, not shallow. E quindi per quanto riguarda le esperienze dei fenomeni, quindi le cose viste, udite, eccetera, allora la nostra riflessione su di essi dovrebbe essere profonda e non superficiale. So when we contemplate a certain object that has arisen in the body or the mind, then we try to go deeply and we try to understand it in its nature, either of impermanence, or to see its unsatisfactory nature, or to see the absence of a self. Quindi quando sorge un oggetto, sia nel corpo che nella mente, cerchiamo di andare in profondità nell'oggetto per conoscere la sua natura, che potrebbe essere appunto il fatto che è impermanente o che crea sofferenza, oppure che è priva di un sé. And certainly when we possess certainly this particular quality of being, of being discreet and prudent, then eventually it will lead certainly to matured wisdom. Quando possediamo questa qualità, che è questa della discrezione, della prudenza, questo porterà a una maturità della saggezza. Forse discrezione in italiano non è il termine. In Italian, to be discreet is more like to be respectful. Sì, quindi qui il discreto è in un altro senso. It's more like being deep in your, più nel senso di essere profondi nella propria osservazione, nella propria esperienza. Like somebody who can distinguish. Now, sometimes we have meditators that suddenly come on a retreat and suddenly are overly confident and self-assured. And even though they're just starting out, they behave as if they're already expert meditators. A volte ci sono dei meditanti che vengono ad un ritiro e sono molto sicuri di sé, molto pieni di sé, e anche se sono proprio all'inizio, credono di essere già degli esperti meditanti. Such the meditators may be quite rough in their behavior. They might exhibit boldness and a lack of shame. E quindi nei loro comportamenti potrebbero essere un po', rozzi, diciamo, e potrebbero dimostrare anche una certa sfacciataggine e una mancanza di vergogna di vergogna. If you feel you know everything already, when you start your first retreat, then you're going to block yourself. Quindi se credete di sapere già tutto quando ho cominciato un ritiro, allora questo potrà rivelarsi per voi un blocco nel vostro percorso, nella vostra pratica. And then you will not be willing to cultivate your physical, verbal and mental behavior. E quindi non sarete molto disponibili a coltivare il vostro comportamento mentale, fisico e verbale. And as a result of this, it will be difficult to truly understand the Dhamma. E di conseguenza sarà veramente difficile comprendere veramente il Dhamma. Now, the last quality to be cherished is given as one should not be greedily attached to families. L'ultima qualità che va sviluppata riguarda il fatto di non essere troppo avidamente attaccati alle famiglie, alla famiglia. Now, the term family or families here should not be taken literally. It's includes also one's fellow meditators. In other words, while on a retreat, we don't want to get too close to others, and especially not with an hidden agenda of receiving, obtaining things from others. Allora qui il termine famiglia va inteso in un senso più generale, e quindi può comprendere anche i propri compagni di pratica o di meditazione, e quindi quello che si intende è che il meditante non dovrebbe avvicinarsi troppo, in maniera troppo avida, diciamo, ad altri compagni di meditazione, altri meditanti presenti al ritiro, e soprattutto deve evitare di farlo con l'intenzione così un po' nascosta, di ottenere qualcosa dall'altro. The Buddha was not pleased with this kind of an attachment to others. Il Buddha non era molto, come dire, contento quando vedeva questa sorta di attaccamento verso gli altri. While on a retreat, the perfect sadhana companion is the Dhamma. Durante un ritiro, il compagno perfetto è il Dhamma. And in this connection, the Buddha speaks of the triple viveka. Viveka stands for seclusion, and the first type of seclusion is bodily seclusion. So we seclude ourselves from others, even though we practice together. Quindi Buddha parla di tre tipi di isolamento, chiamiamolo così, viveka in pali, e il primo tipo di isolamento è quello del corpo, quindi in un certo modo noi ci isoliamo rispetto agli altri. Now, the second is mental detachment or seclusion, citta viveka in pali, and this means that we are that the mind is secluded from the five hindrances. Il secondo tipo di isolamento è quello mentale, quindi citta viveka, e questo significa che durante un ritiro, comunque nella pratica, la mente è, come dire, isolata rispetto ai cinque ostacoli. And the third form of seclusion comes in the form of nibbana. La terza forma di isolamento viene sotto forma di nibbana. Now, these 14 qualities are mentioned in the Metta Sutta, the discourse of loving kindness, a very well known discourse. Quindi queste qualità sono anche menzionate nel Metta Sutta, che è il sutta che riguarda la gentilezza amorevole, ed è un sutta molto ben conosciuto. So, and to summarize the main qualities that the Buddha has described, and qualities that are important to us as meditators, these qualities are. Quindi per riassumere queste qualità importanti che il Buddha ha indicato, importanti per noi come meditanti, sono le seguenti. So first one is ability to practice sila. La prima è l'abilità di praticare sila. And then uju and suju we can translate as or we can give as uprightness. Quindi uju e suju, che possiamo tradurre come rettitudine. Then we have obedience. Qui abbiamo l'obbedienza. Then as a further quality, malleability or gentleness of the mind. Quindi la malleabilità o la gentilezza della mente. Then humility or non-pride, absence of pride. L'umiltà e l'assenza di orgoglio. Then contentment. Poi l'appagamento, essere soddisfatti con ciò che si ha. Then we are easily supported, or to put it differently, non-fussiness. Quindi siamo facilmente soddisfatti, facilmente accontentabili, o in altre parole, in italiano si deve essere la non capricciosità. Yes. And so then we have few duties to take care of. Poi quella dopo è avere pochi impegni, pochi doveri di cui occuparci. And certainly then the quality of frugality in the sense of being economical with our things, or thrifty. Poi la frugalità, o essere, come dire, avere una certa economia rispetto alle cose che possediamo. Di avere poche cose. Then our senses are calmed. I nostri sensi sono calmati, placati. And certainly then we try to achieve mature wisdom. Cerchiamo poi di acquisire una saggezza matura. And so, we try not to be overly confident and self-assured. Cerchiamo di non essere troppo sicuri di noi stessi. And so, finally, non-attachment. E infine il non attaccamento. Now, to give you the context of the sutta, allow me to read out the whole thing. Allora, per darvi il contesto riguardo al sutta, permettetemi di leggervi l'intero the whole thing in the sense of the whole sutta. Or with translation that might be a little bit much, no? È un po' troppo con la traduzione o reggete? How long is it? Ten verses. Sono dieci versi. Yes. Okay. So then I'll skip the first two verses, since we've covered those already. Quindi salterai i primi due versi perché li abbiamo già parlato. One should not pursue the slightest thing for which otherwise men or women might censor the person. May all beings be happy and secure. May their hearts be wholesome. One should not pursue the slightest thing for which otherwise one might get censored. Quindi uno non dovrebbe perseguire la pur minima cosa per la quale potrebbe ricevere una censura da altri. May all beings be happy and secure. Censored by the wise, does it say? May all beings be. No, it didn't say anything about wise. No, just censored. No, because it's in censored. The book. Maybe they say sometimes in the book it says if that a wise person might censor you for. Yeah, that's great. Yeah. Sì, quindi può anche essere interpretato così, cioè di non fare nulla che potrebbe essere condannato dai saggi. Comunque il Metta Sutta giustamente dice Kelly, ce l'abbiamo poi nel libretto, se vorrei andare a guardare. And may their hearts be wholesome. So the first was may they will. May all beings be happy and secure. Possano tutti gli esseri essere felici e al sicuro. May their hearts be wholesome. E possono i loro cuori essere salutari. Then verses 4 and 5. Whatever living beings there be, feeble or strong, tall, stout or medium, short, small or large, without exception, seen or unseen, those dwelling far or near, those who are born or those who are to be born, may all beings be happy. Whatever living beings there be. E quindi c'è l'auspicio che qualunque essere vivente ci possa essere, e poi c'è un elenco di qualità, quindi che sia alto, piccolo, grosso, magro, seen or unseen, che sia visibile o non visibile, dwelling far or near, che abiti vicino o lontano, those who are born or those who are to be born, quelli nati o quelli che devono ancora nascere, may all beings be happy, che possano tutti gli esseri essere felici. Let none deceive another, nor despise any person whatsoever in any place. Let him or her not wish any harm to another out of anger or ill will. Let none deceive another. Che nessuno debba ingannare un altro. Not despise any person. Disprezzarlo. In any place. In qualunque luogo. Let him or her not wish any harm to another out of anger. Che nessuno auguri del male ad un'altra persona a causa di una sua rabbia. Just as a mother would protect her only child at the risk of her own life, even so let him or her cultivate a boundless heart towards all beings. Così come una madre proteggerebbe il suo unico figlio, likewise let one cultivate a boundless heart towards all beings. allo stesso modo che uno possa coltivare un cuore infinito verso tutti gli esseri. Let certainly one's thoughts of boundless love pervade the whole world. Che i propri pensieri di amore infinito possano pervadere l'intero mondo. Above, below and across. Quindi di sopra, di sotto e dappertutto. Without ovunque. Any obstruction. Senza nessuna ostruzione. Without any hatred, without any enmity. Senza odio, senza inimicizia. Whether one stands, walks, sits or lies down. Che uno sia in piedi, sia seduto, cammini o sia sdraiato. As long as one is awake. Finché uno è sveglio. One should develop this mindfulness. Uno dovrebbe sviluppare questa consapevolezza. This, they say, is the noblest living here. The noblest living here. Questo dicono che è la persona più nobile che abita o che dimora qui. Not falling into wrong views, being virtuous and endowed with insight. Quindi non vittima di visioni errate, dotato di saggezza e di virtù. By discarding attachment to sense desire, quindi lasciando perdere, quindi eliminando l'attaccamento ai desideri sensoriali, never again is one reborn. In questo modo nessuno è più rinasce, cioè nessuno rinasce nuovamente. And with this, let us conclude the Dhamma talk. E con questo concluderemo il nostro discorso di Dhamma. Comunque nel libretto a pagina 7, se volete poi leggerlo, il discorso sulla gentilezza amorevole. It's in the Pali and the Italian. Also in Italian. Yeah. Oh, that's good. And it's also in the English booklet somewhere. Probably a much better translation.